Si tratta di finanziare per un programma di medio termine l'attività di medici, biologi e psicologi che sono dedicati ad attività fondamentali per la diagnosi, il trattamento e il controllo della qualità di vita di bambini, fratelli e nuclei familiari di soggetti affetti da tumore. In Italia ogni anno ammalano circa 1600 bambini che sono affetti da leucemie, linfomi o tumori solidi. Il centro di Bologna è al centro di questo network nazionale e noi abbiamo attività che richiedono competenze mediche particolari, molto particolari, attività psicologiche e anche attività di ricerca che possiamo affrontare solo grazie al sostegno dell'associazione genitori che raccoglie fondi e investe insieme a noi, insieme all'azienda, insieme al servizio sanitario regionale su questo tema. Questi progetti coprono varie fasi del percorso. Quanto è importante un approccio che comprenda tutto questo percorso? Veda, io mi laureo in medicina quando 9 bambini su 10 muoiono entro 3 mesi dalla diagnosi. Sono vicino alla pensione e 8 su 10 guariscono, hanno una buona qualità di vita, fanno figli normali. Tutto questo è stato possibile grazie a quello che la medicina chiama approccio olistico. Sembra banale, ma non si può curare il corpo di un bambino, il corpo di un soggetto, prescindendo dalla mente, prescindendo dallo spirito. Quindi un approccio palliativo a tutto tondo di questi bambini e delle loro famiglie per assistere ovviamente anche l'ambiente che assicura la loro qualità di vita. È fondamentale. La pediatria è una disciplina che offre la possibilità di scoprire l'acqua calda per un medico, che per guarire una persona bisogna non solo assicurare la sua sopravvivenza, ma assicurare una buona qualità di vita, un valore percepito. E il bambino è molto semplice, insomma, pretende non solo di vivere, ma di vivere bene. E per questo ha bisogno della mamma, dei fratelli, ha bisogno di tanto affetto. E quindi questo è quello che deve essere assicurato.